Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. In ascolto, questa è Restiamo Animali, una trasmissione che racconta fatti di attualità con lo sguardo degli altri animali, provando a mettersi nei loro panni, nelle loro penne, nelle loro squame, nei loro velli. E questo altro sguardo ci racconta qualcosa di noi, qualcosa della società umana, del cambiamento urgente e necessario che andrà fatto per stipulare un nuovo patto con il resto del mondo vivente, sensibile. Puntata numero 485, nella quale parleremo di stupidi selfie coi delfini, di una crescente ostilità verso i circhi con animali, di allevatori che accendono fuochi per togliere ossigeno ai lupi e di giovani attivisti che accendono i loro cuori a favore della vita dei pesci. Speriamo di avervi incuriosito. Cominciamo il nostro viaggio dalla Svizzera, paese del lilla che ci fa passare la voglia. Chiude il circo Nock, il più vecchio del paese. Quindi apriamo con una buona notizia che abbiamo trovato l'11 maggio. Il circo Nock cessa la sua attività dopo 158 anni di onorato servizio. Lo rende noto con rammarico la famiglia che gestisce questo circo, motivando la decisione con i deficit, con la concorrenza, con la difficoltà a trovare luoghi per issare il tendone e con i requisiti sempre più severi necessari per l'impiego degli animali. Le origini di questa famiglia di circensi risalgono al XVII secolo. In passato, sostiene Nock, i comuni erano felici quando arrivava il circo, ora invece si ha la sensazione di essere solo tollerati. A queste difficoltà si aggiunge poi l'inasprimento delle norme a tutela degli animali e la crescita della concorrenza da parte di altri tipi di spettacoli, concerti, musical, teatro, che lasciano poco spazio al circo. Questa notizia darebbe credito a quel settore degli animalisti convinto che sia questa la strada maestra da percorrere. Più benessere per gli animali sfruttati, quindi più spese per gli imprenditori, meno profitti al settore, fino al convincimento ad abbandonare questo tipo di impresa, magari riconvertendola in modo cruelty free. Vedremo se sarà proprio così. La seconda notizia invece riguarda l'Italia e riguarda una nota emittente radiofonica, Isoradio, che solitamente fornisce notizie su traffico e meteo e che collabora con importanti istituzioni come l'ANAS, la Società Autostrade, la Polizia Stradale, i Carabinieri. Ebbene, Isoradio quest'estate offrirà a chi viaggia anche una campagna contro l'abbandono degli animali domestici. Danilo Scarrone, direttore del canale radio degli automobilisti, si è espresso con queste parole. Ogni anno sono centinaia di migliaia i cani, i gatti e non solo vittime della strada, uccisi soprattutto dall'egoismo dei loro padroni crudeli. Un animale non può essere considerato come un oggetto da prendere e lasciare a piacimento e noi non possiamo che concordare. Mezzo dal decreto che aveva riaperto la possibilità di nuotare con i delfini detenuti in cattività, adesso una sentenza del TAR del Lazio ha ristabilito l'assoluto divieto per questa pratica. Gli unici soggetti che potranno entrare nelle vasche con questi animali sono gli addestratori professionisti. Tutto ebbe inizio con un decreto datato 20 dicembre 2017, molto discusso, che stabiliva che si potesse aprire la possibilità di nuotare con i cetacei, nello specifico con i tursiopi, a fini, diciamo così, educativi. Il decreto fu oggetto di asprissime polemiche perché si diceva che questa attività era un vero e proprio regalo ai delfinari che potevano rimpinguare le proprie casse programmando nuotate del pubblico assieme ai delfini, ovviamente a pagamento. Con la nuova sentenza il TAR del Lazio cancella il decreto. Adesso non è più possibile nuotare con i delfini nelle strutture che li detengono. Per molti nuotare con i delfini rappresenta un vero e proprio sogno, forse perché non si sono resi conto di quanto sia per il delfino stressante avere un essere umano che gli si avvicina, che lo abbranca magari per un selfie. Inoltre questa attività è anche rischiosa, perché ci sono stati degli incidenti registrati in tutto il mondo, sia a danno del pubblico sia a danno degli addestratori. Nei principali delfinari, cioè SeaWorld di Orlando in Florida e il Dolphin Cove Park di Sant'Antonio, Texas, dove si può nuotare con i delfini, ci sono stati casi di ragazze morse da questi tursiopi, ma anche di addestratori che hanno segnalato eventi traumatici. Del resto, i delfini sono pur sempre degli efficienti predatori carnivori, obbligati in un ambiente circoscritto che non è quello per il quale sono progettati e quindi altamente stressati. In alcuni parchi marini è stato anche osservato un comportamento veramente straziante da parte delle madri che impediscono ai figli di raggiungere la superficie per respirare. Secondo certi studiosi si tratterebbe del tentativo delle madri di non far crescere i figli in cattività, preferendo appunto vederli morire. In breve, l'unico posto dove ammirare questi magnifici animali è il mare, il loro ambiente naturale dove i delfini in libertà si avvicinano all'uomo soltanto quando e se lo desiderano. A nostro parere, chi li ama davvero poi li guarda nei documentari e lascia l'ambiente marino a loro completa disposizione. Oh, La violenza più vigliacca è quella nei confronti di chi non può nemmeno urlare. È con questo slogan d'effetto che The Save Movement ha invitato a partecipare a una veglia per i pesci che si è svolta a Roma il 30 marzo scorso presso il mercato di San Lorenzo. Gli organizzatori hanno avvisato i partecipanti di quello che potrebbero trovarsi davanti, come ad esempio creature marine ancora vive che agonizzano in attesa dei clienti o pesci che vengono uccisi davanti ai clienti. Italia Fish Save, cellula dedicata ai pesci del più grande Save Movement, organizza veglie e attività di sensibilizzazione a favore dei pesci e afferma che i suoi eventi sono basati sull'amore. Abbiamo intervistato Simone Scampoli, ideatore e organizzatore delle veglie di Save Movement. The Save Movement nasce con le veglie, appunto, no? Che è quell'attività che si fa davanti ai mattatoi, quindi cerchiamo di fermare i camion che arrivano e incontrare gli sguardi di questi animali e regalare un gesto di decenza a questi esseri, no? Documentiamo e poi comunque facciamo vedere alle persone le vite che hanno queste povere creature. Questo appunto si può fare anche in un allevamento, in un circo, come dicevo prima, incontrare gli animali che soffrono, ma anche i pesci. I pesci sono gli esseri più dimenticati, più sfruttati, più ignorati in assoluto e c'è necessità di parlare anche di loro. Per questo c'è l'ala di The Save Movement che si chiama Fish Save e ci rechiamo nei porti, sui moli, nei mercati del pesce e cerchiamo appunto di sensibilizzare le persone che sono lì o a volte quando arrivano i pescherecci cerchiamo di documentare questi pesci che spesso sono ancora vivi agonizzanti perché ci sono pesci che soffocano anche per ore. Quindi ahimè è triste da vedere, è dura da vedere, ma è necessario documentare tutto questo e far vedere alle persone cosa si cela dietro questa industria. Quindi l'idea non è nata in Italia, esiste già da un po', però le prime veglie per i pesci sono state fatte proprio nei mesi scorsi in Italia da me e da altri ragazzi di The Save Movement, del team italiano, e ce ne saranno tantissime altre in futuro perché c'è veramente necessità di parlare dei più dimenticati in assoluto in questo mondo, che sono proprio i pesci. Al momento sono attivista a tempo pieno per The Save Movement. Beh, le attività sono tantissime, quindi potremmo stare ore a parlarne. Però per dare un'idea, trattiamo tutto ciò che riguarda il veganismo, quindi ci richiamo in mattatoi, allevamenti, circhi, mercati di animali, ogni realtà in cui ci sono animali che sono sfruttati e quindi hanno bisogno di essere visti e raccontati per far sì che le persone smettano di supportare queste barbarie, oppure agiamo per il clima tramite semplici pulizie di spiaggia o piantagioni alberi o piantagioni di fiori per le api o per altri specifici insetti, o andiamo nelle scuole a parlare, facciamo conferenze stampa in giro per cercare di far conoscere la causa e far crescere il movimento, trattiamo tematiche di salute connettendo con nutrizionisti, dottori, cucinando per senza tetto oppure facendo attività in strada per far conoscere prodotti vegani alle persone, fargli vedere che comunque si può godere mangiando anche vegano. Quindi insomma le attività sono tantissime, io le faccio al momento in tutta Italia, ma mi occupo di The Save Movement a livello mondiale. Sul Corriere della Sera ho letto con piacere un'intervista a Mauro Fasola, un ornitologo ordinario di zoologia a Pavia, che da quasi 50 anni va in giro per risaie, paludi e torbiere a monitorare le coppie di aironi che nidificano in Italia. Scopriamo così che nonostante l'urbanizzazione, l'agricoltura intensiva, la caccia e il bracconaggio, la popolazione di aironi si è moltiplicata con un aumento di oltre 20 volte rispetto a quanti ce n'erano negli anni 70. Questi uccelli si sono abituati alla presenza dell'uomo e adattati ai cambiamenti e rumori di auto e aerei. Nel 1971 viene pubblicato il 33 giri, all'epoca si chiamavano ancora così, Piero Ciampi. All'interno il cantautore livornese dedica un brano a un uccello che vola tra i nostri cieli, il merlo. Merlo, mi canti qualcosa, tristezza fra noi. Sono disteso sul letto e qualcosa non va. Tu, merlo, cantami una canzone da portare all'editore, perché sono senza una lira. Ancora è bella, lo sai. Ripeti lento che vado al piano a suonare. Sono contento di non aver dato alcun seguito a quel peccato di volerti un giorno mangiare. Io sono felice per questa collaborazione. Corro a fissare la sala per una incisione. Beviamo insieme un po' di champagne. Il mio cuore mi dice che va, i problemi finiscono qua. Dedicata ai delfini la ricetta di oggi, curata dal tosco vegan chef Gabriele Palloni all'interno del suo spazio etico gastronomico Il Pasto Gentile. Il Pasto Gentile è un frigorifero senza crudeltà. Il delfino sembra un pesce, ma non lo è. Ecco, questa affermazione la possiamo applicare anche alla ricetta di quest'oggi, che in uno slancio di generosità dedico a questi simpatici mammiferi. Gli ingredienti per 4 persone per le praline di mare sono 100 g di ceci cotti, 200 g di patate lessate e schiacciate, un cucchiaio di capperi, uno spicchio di aglio, del prezzemolo, un cucchiaio di succo di limone, un po' di origano, una scorza di limone, dell'alga nori, un cucchiaino di semi di lino macinati, sale e pepe e olio extravergine di oliva. Mettete un pezzetto di alga nori in ammollo con una tazzina di acqua. A parte tritate i capperi. In un pentolino sciogliete i semi di lino tritati con l'acqua di ammollo dell'alga. Aggiungete i capperi e 2 cucchiai di olio e mettete sul fuoco per qualche minuto. Scolate bene i ceci e tritateli con un mixer assieme all'aglio, il prezzemolo, l'alga, l'origano, il succo e la scorza di limone. Aggiungete la salsa di capperi e i semi di lino ed infine le patate. Impastate il tutto aggiustandolo di sale e pepe. Con le mani leggermente inumidite realizzate delle praline che farete riposare in frigorifero almeno 30 minuti. Sistemate le praline in un piatto decorando con strisce di alga nori, capperi, prezzemolo e fettine di limone. Servite accompagnando con maionese vegetale. This old world may never change the way it's always been. I know all the ways of war, cannot change it back again. I've been searching for the dolphin. Sometimes I wonder, do you ever think of me? Prima di chiudere, due brevi notizie. La prima riguarda la pesca di frodo. A Bando d'Argenta, in provincia di Ferrara, la polizia provinciale ha liberato in mare 400 kg di pesce pescato di frodo e ha recuperato 300 metri di reti a tramaglio. A Palermo, invece, dopo lo stop invernale, è ripresa purtroppo la pesca di frodo dei tonni. Il 14 maggio i sommozzatori e gli specialisti nautici dei Vigili del Fuoco, in collaborazione con la Capitaneria di Porto, hanno recuperato nel mare di Sant'Erasmo alcuni tonni pescati illegalmente e lasciati al largo, legati ad alcuni galleggianti, per essere poi recuperati nel cuore della notte dai pescatori di frodo. I tonni sequestrati, dopo il controllo medico, sono stati donati all'associazione Boccone del Povero. Noi speriamo che il controllo medico sia stato molto accurato, perché si rischia altrimenti di eliminare, assieme ai tonni, anche i poveri. Infatti, il pesce, se non è adeguatamente conservato a una temperatura inferiore a 4 gradi centigradi, può sviluppare istamina, una sostanza che può provocare gravi danni alla salute. Puis ce fut ma fée adorable. Puis je vous baisse les mains, puis je vous baisse le front. Je m'empare de toi, mon amour. Je te presse absolument nu contre moi. Chiudiamo la puntata parlando di lupi, forse gli animali più simbolici, più amati, ma anche più odiati nel mondo. Un'ANSA dell'11 maggio ci segnala che in Alto Adige numerose montagne sono state illuminate da falò accesi dagli allevatori per protestare contro la presenza del lupo. Si è trattato di un'iniziativa transfrontaliera lungo tutto l'arco alpino. I fuochi, ha spiegato l'associazione degli agricoltori altoatesini Bauern Bund, sono un segno visibile contro i lupi. Nonostante le relativizzazioni, è sempre più chiaro che la pastorizia tradizionale e il lupo sono incompatibili. Afferma questo il presidente dell'associazione Leo Tiefenthaler. Siamo sempre convinti che l'Alto Adige debba essere di nuovo libero dai lupi e ciò richiede un piano nazionale che preveda zone libere dai lupi e il controllo della popolazione dei lupi, come avviene in altri paesi europei. Ecco, la speranza di questo presidente dell'associazione allevatori è proprio l'opposto della nostra speranza. Noi, infatti, ci auguriamo di avere presto zone libere dall'allevamento e dalla pastorizia, dove possano prosperare lupi e altri animali selvatici. Tra l'altro, i lupi si nutrono principalmente di animali selvatici e non di animali d'allevamento.